Dallo schifo, la prima stella del mattino, Lucifero da piccolo, il principe, il delfino, i peccati del santo, le virtù dell'assassino. Qui l'aria è pesante, frantumere il finestrino, metti in bilico i cuscini, costruiscimi un fortino, la fine di un grande re, porta l'impero in declino, fumo come un camino, troppa carne intorno all'anima, non sento nessuno che mi è realmente vicino. Tu mi baci sulle labbra, firmi il beneficio, ora che mi abbracci ti ricordano il cilicio, programmato per arrendermi nelle vene il silicio. Mi do del fallito mentre fuori gridano al prodigio. Calpestero i miei nemici, li userò da trampolino. Basta un istante di luce, mi brucio come un rullino. Mo che il modo in cui mi umilio è diventato proficuo. Pianto dopo pianto, rigo dopo rigo. Però questa non è pelle, sono pezzi di un feticcio. Quando brancolo nel buio, reggimi se vacillo. Mosca bianca, piumaggio nero del cigno. Per quanto mi pulisco, dentro di me c'è il maligno. Ora che ogni tua parola mi pesa come un macigno, e il tuo sguardo più dolce resta arcigno. Il male che mi logora non può essere benigno. Crivellatemi per bene, disinnescate l'ordigno. Non lo faccio per la fama, io non voglio prestigio, nemmeno per il denaro, riprendetevi l'anticipo. Non lo faccio per le donne, per sembrargli più figo. Io non rappo per moda, non sarò l'ultimo grido. Non è questione di ego, non girerò impettito. Non è roba di strada, più cresco più mi fa schifo. Non lo faccio per i fan, non ho bisogno di tifo, non voglio cambiare niente, il cielo rimarrà grigio. Non è per riconoscenza, fanculo ogni sacrificio. Non lo faccio per divismo, chi di anti-idolo. Non lo faccio per salvarvi, non sono di certo il tipo. Non penso di salvare me, non sono così cretino. Non voglio nessuna grazia, non anelo al paradiso. Non ho alcuna visione, resto sempre un indeciso. Non lo faccio per rispetto, per sembrare cattivo. Se vado dentro adesso questo non sarà servito. Non lo faccio per me stesso, non è per egoismo. Non è per un mio amico, per dirgli che abbiamo vinto. Non è neppure per i miei, per sembrare un bravo figlio. Non lo faccio per status, per sembrare più ricco. Non voglio sentire applausi per due cazzate che ho scritto, per ricevere un premio e far parte del meccanismo. Niente protagonismo, sono un ragazzo schivo. Sono schiavo di sostanze che col tempo ti uccidono. Non mettetemi di lato, c'è il rischio che mi svirgolo. È una prigione open space, eppure non me la sfigno. Il dolore era atroce, ne è rimasto un fastidio. La spada che mi colpiva, mo è grande quanto uno spillo. Di una ricchezza infinita ci resta solo lo scrigno. Dell'ultima cena c'è rimasto l'appetito, dell'ultima rissa se n'è andato pure il livido. Quando un eroe cade ci resta solo il mito, del regista qualche frame, del poeta mezzo rigo, del filosofo la forma, del musicista un disco, del genio una formula, dell'attentato un video, l'ombra di ciò che vivo, la biografia del cattivo Lucifero.